să spari i capiti ochii. Scuti dentro ai miei pensieri, è inutile se cerchi di tornare come ieri. Tutto è già passato, tutto è già finito, il tiro di una volta adesso è già svanito. Il gioco delle parti, il vizio degli incanti, pericoloso gioco per gli istanti. Lo so che non va comportarsi così, lo so che non va trattarti così. Non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai e resti qui. Lo so che non va comportarsi così, lo so che non va trattarti così. Non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai e resti qui. Inizia dai vestiti, qualcosa che mi intrighi, ti porto a fare un giro i diamanti. È già svanito il gioco delle parti, il vizio degli incanti, pericoloso il gioco in quegli istanti. Lo so che non va comportarsi così, lo so che non va trattarti così. Non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai e resti qui. Lo so che non va comportarsi così, lo so che non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai e resti qui. Ehi baby, lo so che non va comportarsi così, lo so che non va trattarti così, cosa vuoi fare stanotte? Andare o restare? Ehi baby, lasciati andare. Non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai o resti qui. Lo so che non va comportarsi così, lo so che non va trattarti così. Non so se ti va restartene qui, ma adesso che fai, vai o resti qui.